Eccoci con Veronica Liberale. Dopo aver sentito Cristiana e Vaccaro, parliamo con l'autrice del testo, che è anche in scena come attrice. Veronica, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera, si dice all'1:30. Buongiorno. Mi sa di sì. Buonasera. Sì, dopo mezzogiorno diventa sera. Ah, ok. Allora, Veronica, con lei abbiamo parlato più della regia, sì. Chiaramente con te la costruzione del testo. Raccontaci un po' come hai lavorato. Niente, io diciamo che questo testo, non voglio esagerare, ma è un pezzettino del mio cuore, perché insomma io sono sanlorenzina, ho vissuto a San Lorenzo i primi 30 anni della mia vita e l'ho sentita tanto, insomma l'ho frequentata, ho fatto l'università, insomma diciamo che è, anche se sono venuta dopo il bombardamento, perché insomma, però il bombardamento comunque, se vivi a San Lorenzo, lo vivi comunque indirettamente dai racconti di chi, quando ero bimba, poi insomma le persone che c'erano, i sopravvissuti erano giovani, insomma all'epoca anche giovani, adesso stanno ahimè scomparendo, insomma, però insomma il bombardamento, lo sappiamo, ha cambiato il volto di questo quartiere. Quindi diciamo io faccio l'autrice, cioè vorrei fare la mia aspirazione d'autrice teatrale, ho scritto un paio di commedie che sono andate abbastanza bene e quindi mi sono detta devo scrivere una cosa per il quartiere, insomma, dedicata a questo quartiere che ho amato tanto, che amo ancora. E niente, è venuto in mente di ambientarlo nel periodo della guerra, però nei giorni che precedono il bombardamento. Infatti la commedia si svolge proprio in luglio, però nelle settimane che precedono il bombardamento. È nata perché ho partecipato a questo concorso, che è il Comic Off, a cui avevo già partecipato l'anno prima con una commedia, era andato bene, ho detto vabbè, ripartecipo, e anche quest'anno insomma è andato abbastanza bene perché abbiamo vinto il premio Marconi, il premio dei Servi, quindi saremo in due teatri importanti a Roma e siamo molto contenti, insomma. Quindi è nata così, sì. Un po' dalle mie, diciamo, dai miei ricordi, dalle suggestioni. Poi sono andata al centro anziani, ho intervistato gente che insomma c'era durante il bombardamento, comunque gente che l'hanno vissuta con i racconti dei genitori, e insomma diciamo devo molto a queste signore del centro anziani di San Lorenzo e al presidente del centro anziani, che mi hanno diciamo deliziato con i loro ricordi, dalle loro suggestioni, dai loro ricordi, dai loro racconti è nata questa storia, che comunque è romanzata, fatti veri con personaggi di fantasia. Sì. E niente, questo così, insomma, ho lavorato così. Senti, Veronica, la scelta degli attori, come è nato tutto? Sì, diciamo che io avevo degli attori con cui avevo già lavorato, che ho chiamato per fare lo spettacolo, poi insomma c'era, il cast non era completo, poi ho chiamato Cristiana perché insomma la stimo, Cristiana Vaccaro, la stimo come attrice, come regista, e pensavo insomma, visto che è una storia soprattutto al femminile, mi piaceva anche avere una regista, anche insomma un punto di vista di una regista donna, e quindi l'ho chiamata, le ho fatto leggere il testo. E lei insomma è stata molto carina, perché mi ha detto mi piace, lo faccio perché mi piace la storia, però mi ha detto questa cosa la dobbiamo raccontare, la dobbiamo fare, una cosa che mi ha colpito molto, se la facciamo la dobbiamo fare vera, col cuore, insomma quasi una recitazione, non dico cinematografica perché il teatro ha il suo linguaggio, per carità, però vera, se la facciamo vera e col cuore verrà fuori una bella cosa. Mancavano due attrici e lì ovviamente le ha scelte lei, le ha portate lei, delle attrici straordinarie che insomma hanno dato ancora di più lustro alla cosa, insomma. E quindi diciamo un po' di cast l'ho portato io, un po' di cast l'ha portato Cristiana, e poi alla fine abbiamo messo insieme questi 7 attori e abbiamo lavorato molto bene. Poi è bello perché insomma abbiamo attori di età diverse, quindi quando si creano queste sinergie in scena, che c'è dall'attrice più giovane ce n'ha 25, quello più grande ce n'ha 70, e quindi è bello avere attori con età diverse in scena, perché si creano anche insomma c'è uno scambio maggiore, insomma, perché certo. Insomma è bello. A proposito di scambio, ecco, come è stato l'adattamento del testo alla messa in scena, anche con il contributo di attori e attrici, come è stato il tutto? Io sono una di quelle autrici che non, cioè nel senso penso che una volta che un testo vada in scena deve essere un po' al servizio di chi lo interpreta e del regista, quindi non sono di quelle autrici che dice no, questo non si taglia, questo non si tocca, a meno che non viene stravolto completamente il senso della cosa. Io ho detto a Cristiana, fai di questo testo quello che vuoi. Infatti ci sono stati dei tagli, ci sono stati delle piccole modifiche, il testo sostanzialmente è rimasto lo stesso, però insomma poi ognuno, anche ogni attore, ha portato un po' del suo, ovviamente rispettando il personaggio, però mettendo del suo in ogni personaggio, e questo diciamo è bello perché poi il testo prende vita, ed è poi anche un po' la magia del teatro. Un testo uguale può essere fatto in maniera diversa, da compagnie diverse, è un po' anche la cosa bella del teatro. Io comunque sono, come autrice, sono abbastanza, diciamo, tranquilla, cioè mi rendo conto, siccome ho fatto anche l'attrice, quindi mi rendo conto che il testo deve appunto adeguarsi anche alle esigenze della compagnia, e poi a un certo punto diventa del regista, che giustamente insomma deve dare la sua idea, insomma. Quindi se regista e autore all'inizio parlano e si trovano sulla stessa lunghezza d'onda, come ci siamo trovati io e Cristiana, poi vengono fuori delle belle cose, insomma. Noi abbiamo lavorato veramente, devo dire, molto molto bene e molto tranquillamente, insomma. Allora Veronica, in chiusura ricordiamo l'appuntamento al Teatro Marconi qui a Roma dal 18 al 28 di gennaio, da giovedì alla domenica, e a questo punto ti chiedo anche dei riferimenti internet, se c'è un sito o una pagina Facebook dello spettacolo. Sì, abbiamo la nostra pagina Facebook curata da Arianna Pasquale in maniera insomma magistrale, insomma, che ci sono lì, potete trovare foto, recensioni, un approfondimento sulla storia, ed è appunto una pagina, porta il nome del titolo dello spettacolo, che è Pane, Latte e Lacrime. Perfetto, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, e ciao a tutti gli amici di Radio Andalusia. Ciao Veronica, ciao. Grazie.